Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Stiamo parlando di bambini, questo è il problema, non siamo qui solo per i bambini, siamo qui per difendere la nostra identità. E quando ci capiterà un preside di questa risma qui, questo buonista catto social comunista, con le nostre leggi questo qui non andrà tanto avanti. Oggi con le leggi italiote questo qui è ancora in giro a far danni. Questi presidi qui, sappiate una cosa, fanno più danno loro dei terroristi islamici. Costui era un indipendentista veneto con la bandiera di San Marco a Rozzano. Il 25 dicembre nasce Gesù Bambino, poi ognuno può credere nel Dio che vuole, ma togliere Gesù Bambino, tu scendi dalle stelle, il crocifisso dalla scuola, secondo me non fa un buon servizio all'integrazione, anzi ci fa passare come un paese di bamba. Niente, ho detto quest'anno me ne tiro fuori, quest'anno non succede nulla, quest'anno va tutto liscio, quest'anno non ne parlerà nessuno, perché non... perché andrà tutto bene, no. Ragazzi, mi sono beccato Maria Stella Germini che canta Tu scendi dalle stelle, e voi me la beccate anche voi adesso, la beccate anche voi. L'ex ministro dell'istruzione Gelmini che canta Tu scendi dalle stelle, ma non è che me la devo beccare solo io. Una grotta col freddo in gelo. Ok, no. Non è la voce principale, è quella sotto, più femminile. Io ti vedo qui a tremare. Anche intonata. La russa che canta Tu scendi dalle stelle. Che miseria, ragazzi. Sono le 6:33 minuti, sono giorni difficili. Mettiamola così, sono giorni difficili. Ieri, per esempio, sono andato a vedere Pintus, fa morire da ridere. Andate a vedere Pintus, è tutto esaurito. Pintus al Manzoni di Milano, una roba spettacolare, per cui ho dormito 3 ore stanotte. E vabbè, comunque 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, eh? Lorenzo Nespoli è in redazione, il nostro Peter Bescapè è in regia. E Tu scendi dalle stelle. Adesso c'è il vescovo di Sassari che non può entrare in una scuola. Il giornale dice che a Ponzano la recita natalizia, Ponzano, Treviso, è pericolosa, è considerata. Adesso sarà un profluvio, cresceranno scuole che non esistono in questo momento, verranno costruite entro il 12 dicembre in fretta e furia per poi negare la festa di Natale e finire sui giornali. 6:34 minuti, eh? Voglio subito convocare una persona che sarà assolutamente, anzi forse era lì ieri, non lo so, era Rozzano, la nostra grandissima, non posso stare più senza l'Aurora. Oh, porca. Cosa stai ascoltando? Un'aria del 325? No, è una d'Este Fidelis cantata dal Pavarotti, una meraviglia. Ah, la d'Este Fidelis di Pavarotti. Buongiorno Milan, un caro saluto a te e un caro saluto ai tanti, tanti, tanti amici di Radio 24. Cristiani e non. Fedeli e infedeli. Fedeli e infedeli. Ecco la d'Este Fidelis di Pavarotti. Laicista, ti convertiremo. Mi convertirai, va bene. Sì. Allora ti faccio convertire un altro, un grandissimo, un uomo che ha bisogno di essere convertito. Federico Novella, il nostro Fedez. Bravo. Eccomi. Eccolo qua. Buongiorno. Come va? Bene, dopo questa colonna sonora con cui ci hai svegliato questa mattina. Partiamo tutti con il piede giusto. Tutti più buoni. Non unire le mani, tu che sei in tangenziale, però. No, mani sul volante, mani come insegna il maestro. Allora, siamo con Federico Novella che conduce dalle 9 mattino 5 con la nostra Aurorina Lussana. Ah, cosa c'hai, Aurora? È tutto giusto? Eri a Rozzano? Certo. No, dai, stai scherzando? No, diciamo che c'eri o no? Ti stupisce ovviamente che ci sia ancora qualcuno che crede nel sacro, in questo mondo che rigetta Dio. Eccola. Però cominciamo facendoti un complimento. Finalmente, dopo tante mattine che mi metti in confronto la pensatrice lì, quella che adori, come si chiama, la Veronica Gentile, mi recuperi, non so, tutti i calcinacci del vecchio regime comunista. Finalmente un bel manzo. Giovane, bravo giornalista, nonché un bel manzo. Un bel manzo padano. Vedo che la tua redazione osservazione proprio aderente ai principi cristiani. Sì. No, visto che è il Natale, siamo tutti buoni, la famiglia, eccetera. Un bel manzone qua! È tornato il figlio al prodigo, va bene. Ti piace il figlio al prodigo, Novella? È un po' meglio. È un bravo giornalista media. Ecco, il tuo primo apprezzamento era stato di un altro tipo, però è bravo. Però è anche bravo, effettivamente. C'eravamo anche noi ieri mattina a Rozzano. Ma certo. Sì, ma è giusto, oggi tutti i giornali. Io dico, quest'anno speravamo di scamparla, invece no. C'erano delle mamme che erano inferocite. E una sventolava la Bibbia e diceva: tu scendi dalle stelle, non lo dovete cantare perché nella Bibbia non c'è. Quindi certo. ortodossa nella sua. E l'altra sventolava il Corano, no? Dicendo: no, voi dovete cantare Jingle Bells. No, qui c'è Jingle nel Corano. No. Dice: voi dovete cantare Jingle Bells perché è una canzone cattolica. Ma Jingle Bells non mi pare che sia una canzone. Non so, vediamo un po'. Non lo so, vi prego, non girate per andare ad ascoltare Rossella Brescia su RDS. Dura poco. C'è molta confusione sotto il cielo di Rossano. Sotto il cielo di Rozzano, io Rozzano lo conoscevo per Mattia De Sciglio, è nato lì, credo che viva ancora lì, è Mattia De Sciglio. C'è un importante ospedale, l'Humanitas, la nuova Gerusalemme, Rozzano. esatto. Tutti a Rozzano, riconquistiamo Rozzano. Dai, Aurora, riconquista Rozzano, mettiti una bella croce. Ma in quell'occasione ieri Matteo Salvini ha anche denunciato il degrado di quell'istituto, ha documentato i bagni, la palestra. Dopo la russa che canta Tu scendi dalle stelle è ancora più degrado. Sono caduti i calcinacci, secondo me sono caduti i calcinacci dopo sull'agudo di la russa. Allora ascolta, metti le musiche del sultano Erdogan, cosa ti devo dire? Viva il califo, metti sui rap dell'ISIS. Ma cosa c'entra? Vedo che sei così infastidito. Infastidito? Non ho in macchina il CD del sultano. Me le puoi mettere le canzoni? Lui le canta a squarciagola in tangenziale quando va Federico Novella con le canzoni. Ma del sultano. Purtroppo le ho dimenticate a casa oggi, la compilation del sultano. Ma vabbè, Aurora, ma cosa volete riaffermare? No, dimmelo adesso, dimmi e convincici che non sia una mossa politica. Allora, una mossa nel pieno rispetto della presenza di Maria Stella Gelmini, Forza Italia, e Fratelli d'Italia, la russa, e adesso la Callas, La Callas, però era intonata. Aspetta che mi hai... netto del fatto che c'erano Fratelli d'Italia e Forza Italia, fa piacere tutto, però un movimento politico è credibile quando una battaglia politica non la improvvisa. Sì. Io ti assicuro che sono 15 anni, questa è storiografia leghista, che il movimento, prima di Bossi, poi di Maroni, adesso di Salvini, denuncia il fatto che ormai il Pontedoni, che rappresenta la Sacra Famiglia... Ma se fate le robe celtiche, padane, aspetta che siamo in fase di solstizio d'inverno, tu sai che c'è un'antica tradizione neopagana, quindi adesso, allora, tu sai benissimo che nel 2001 già la Lega fece una manifestazione contro l'adesione negoziata della Turchia, perché era contro l'ingresso della Turchia in Europa, cosa ricordata anche dall'allora Cardinal Ratzinger, poi amatissimo unico Papa, unico Papa, unico Papa da te riconosciuto. Ricordati questo, che la Lega 15 anni che dice: attenzione, in nome del laicismo stanno cancellando questa tradizione culturale. Ho capito, religiosa. Però questo neopaganesimo io lo ricordo nella Lega. Non so, tu Federico Novella ricordi qualcosa? I riti per il dio Odino, qualcosina me lo ricordo adesso. Gli Nibelunghi, mi ricordo qualcosa. Comunque è il periodo di Gesù, è giusto. E quindi anche sentite qui Paola Taverna va oltre. Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, perché tutti a Rozzano per la chiama, Paola Taverna invece va oltre. Sentite. E io trovo una vicinanza incredibile all'azione rivoluzionaria che fece Gesù Cristo, all'azione rivoluzionaria alla quale noi oggi stiamo chiamando i cittadini. Capito Federico? No, cioè, perché ridi? Cioè, Gesù è iscritto al Movimento 5 Stelle, trova una vicinanza incredibile. Abbiamo scoperto che è grillino. Gesù fu grillino. Il primo, altro che Grillo, il proprietario. Gesù. In questi giorni è tornata la Santa Inquisizione, stiamo vedendo processate due giornalisti, quindi c'è un tribunale religioso che processa questo due cittadini. È tornata la Santa Inquisizione. Siamo d'accordo su questo? Tanto vale processare anche i grilli, penso che sia blasfemia questa. Considerano unti dal Signore come qualcun altro, peraltro. Esatto. Cioè, qua tutti unti dal Signore, quindi abbiamo avuto l'unto dal Signore, quello per eccellenza, l'unto. Poi avremmo avuto l'unno del Signore, tempi era l'unno del Signore, no? Hai un profondo disprezzo che si esprime nella perdita del soprannaturale. Che inteso come... Aspetta, perché... Scusa, questa me la devi spiegare. Ho perso il soprannaturale. Questa dimensione sacrale, soprannaturale, questa è la decadenza dell'uomo contemporaneo. Guarda, però quando guardi il Milan alla TV lo recuperi un po' il senso del soprannaturale. La crescita del fondamentalismo, guarda che è provocata almeno in parte da questo laicismo, cioè il rifiuto del nostro mondo. Cioè, mi stai accusando di favorire l'ISIS. Io sono un po' grezzo, sono un po' rozzo nelle sintesi. Cioè, mi stai dicendo che se l'ISIS prolifera è un po' colpa mia. No, del laicismo sicuramente. Del laicismo, va bene. Metti qualche musica sacra in più, se metti sempre fede all'inizio. Esatto, dai, tra l'altro, come mi segnalava Peter Vescapè, anche un ascoltatore, è nato pure Biagio Antonacci a Rozzano. Quindi Rozzano in realtà è una città... Rozzangeles, come viene definita, è veramente una città, la periferia di Milano, insomma, che... Cos'hai contro le periferie di Milano? No, era una notizia, non ho detto, perché chi non sa dov'è Rozzano, chi ci segue da Bisceglie, gli dice: ma cos'è Rozzano? Ecco, dice: Rozzano è una città alla periferia di... Siccome non ne parleremo per i prossimi 2000 anni, che Rozzano si goda questo momento. Esatto, è il classico momento di quarto d'ora di gloria warholiana. Ti piace? Comunque sono 20 anni che la Lega diceva queste cose, ma si è svegliato pure Renzi. È vero, anche Renzi ha detto il presente. Però la cosa che non si è ancora capita è perché questo preside ha detto questa famosa frase. La famosa frase: dopo Parigi non possiamo permetterci di fare provocazioni. Poi esatto, questo è il punto. Si è dimesso, no? Però, quindi non possiamo più saperlo. Sì, poi in realtà dicono che non è che si è proprio dimesso, sì, sta aspettando che lo caccino, è un po' diversa la cosa. Però la pubblica amministrazione. Però la parola chiave è proprio quella. Cioè, attenzione, c'è la polemica della Lussana, ha detto: ma chi vuoi che caccino dalla pubblica amministrazione? La cadrega. Allora devo andare via forte. Esatto, devo andare a sentire le informazioni sul traffico. Poi, a grande richiesta di Aurora Lussana, sentiremo il Papa, le parole del Papa. Il Papa, ce n'è uno, il Papa, Papa Francesco. Anche lui grillino, se non sbaglio, no? Sì, un po' grillino anche lui lo è, un po' come la taverna, un po' come Gesù, insomma. Tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta qui è quell'incompetente di senatore che vuole mettere la tassa sulle biciclette, che le biciclette hanno già un numero di telaio seriale, quindi basta soltanto fare un'anagrafe gratuita. Milan, se mettono la tassa sulle biciclette io vado via dall'Italia, te lo annuncio, ciao. Ma c'è tutto studio aperto alla regione Liguria. Ridivento campanilista, ma sto tronca se andasse a troncare le corna da dove ne viene. E nella loro asetticità ci rovinano tutto, ci rovinano il folklore, ci rovinano quel po' di gioia di vivere che uno ha. I guerrieri romani che non stanno più al Colosseo, pure quello era folklore, stanno a troncare corna. Oh Citrullo, sono Fiorentino e una cosa ti voglio dire, siccome io WhatsApp non ce l'ho, ogni tanto manda saluti anche a me, Paolo Anacleto, Prato Montecatini. Vabbè, ti sei autosalutato, caro ascoltatore di Prato, il Fiorentino. Allora siamo con Aurora Lussana e Federico Novella. Oh, intanto Aurora, hai visto che Salah Abdeslam, pare che ci abbia fatto secchi tutti quanti. Hanno fatto quella sceneggiata lì a Bruxelles, no? Quello show lì. Una settimana bloccata alla capitale, cosa hanno fatto? Spero che l'abbia, spero che l'avessero quasi spero che la stessero cercando. Insomma, infatti, stati bravi, hanno trovato. Hanno fatto diventare il Belgio Belgistan, no? Sì. E adesso si tengono il hanno voluto la società multietnica, multirazziale, multireligiosa, e mo si tengono il copri. Salutiamo tutti gli amici del Belgio, tutti gli ascoltatori del Belgio che ci ascoltano. Lo sai cosa è successo 10 anni fa in Belgio? Cosa è successo 10 anni fa in Belgio? C'era un movimento politico, io conoscevo il gruppo giovanile di quel movimento, lì si chiamava Vans Bloc, cioè Blocco Fiammingo, e venne sciolto dalle autorità perché era un movimento razzista e xenofobo, visto che diceva attenzione, rischiamo l'islamizzazione del Belgio. È stato sciolto per razzismo e xenofobia, un movimento contro l'immigrazione irregolare e l'islamizzazione. L'unico baluardo. Hai capito qual è il problema del Belgio? Capito, Federico? Hanno battuto il baluardo contro l'islamismo imperante. Era la Lega Nord del Belgio, praticamente, più o e meno. E poi è diventato Frans Belang, insomma, è rinato sotto altre forme. Il Belgistan, vabbè. Intanto Salah Abdeslam, questo se è vero. Speriamo solo, Federico, che gli facciano una bella festa per il fatto di non essere riuscito a avere il coraggio di farsi brillare. Che lì non scherzano, eh? Speriamo lo accolgano così. Dice: non hai avuto il coraggio di farti saltare in aria. Perché pare che anche l'ISIS fosse arrabbiato con questo Abdeslam. Credo che anche loro abbiano una giustizia piuttosto sommaria, diciamo, questi signori, no? Quindi probabilmente sì. No, la cosa preoccupante poi è la facilità comunque con cui le persone con questo tipo riescano a sfuggire, no, alle ricerche, e riescano anche a percorrere il nostro territorio nazionale, perché ricordo che qualche mese... possiamo candidare il sindaco a Milano? Ma sì, no, perché sarei occupato in altre faccende, affaccendate. Vabbè, le molli, certo. Guarda, non vedo l'ora, guarda. Senti, no, perché Renzi qualche mese fa diceva Alfano forse, abbiamo espulso 55 sospetti terroristi, però poi se vai a scoprire questi 55 erano già stati cacciati 2 o 3 volte a testa e sono sempre rientrati. Ma no, ma è chiaro, ma il fatto che questi vadano in giro per l'Europa eccetera, è un po' la missione del fallimento dei nostri servizi di intelligence, questo è abbastanza chiaro. Quello sì, però anche del fatto che non abbiamo delle regole noi italiani adatte al momento. L'altro giorno hanno preso, se non sbaglio, una persona sul treno che aveva con sé sul telefonino una serie di bonifici non precisi, non meglio precisati, dei messaggi in cui ci diceva sto comprando delle armi, va bene, delle foto di guerriglieri tutti intabarrati. L'avremmo lasciato andare via. Abbiamo detto biglietto, tutto lasciato, regolare. L'hanno lasciato andare. Ha detto c'ha il biglietto, c'ha il biglietto. E allora, cioè, no, aspetta, l'hanno trattenuto e poi il giudice l'ha lasciato andare, lasciato perché andare, evidentemente non c'erano i presupposti per tenerlo in carcere. Comunque non abbiamo delle leggi adatte. No, no, non molto. Allora io vi faccio invito come al solito del selfie, della foto. Aurora Lussana l'ha fatto una volta, la foto del cielo. Ragazzi, senti, no, sto vedi cucinando. Vabbè, che cosa stai cucinando? Coniglio alla bergamasca. Il coniglio alla bergamasca, dobbiamo dirlo subito a Cruciani. Dobbiamo dirlo subito a Cruciani. Servono due ore, perché a ora proposito, scusa Alessandro, ma se Cruciani si mangia il coniglio, tu che ti mangi in diretta? No, no, io niente, cioè, in diretta a quest'ora posso mangiarmi una brioche. Sai, una costata a quest'ora un po' dura. Però il coniglio è d'Aurora, se quando sarà pronto per pranzo. Beh, una tradizione tipica bergamasca, polenta e cunì. Polenta e? Cunì, con la U, con la di R. Infatti non volevo dirlo come lo dici come tu. La bazia di Cluny, Cunì. Cunì, polenta e Cunì. Bravo, Cuni. Vediamo se il candidato sindaco a Milano Federico Novella ce la fa. Polenta? Rinnego questa qualifica. No, peraltro. Cuni. Peraltro ti informo che Federico Novella. Sì, ma lui è Brianzolo, è Brianzolo di Monza. Federico Novella. Ragazzi, ormai sono quindi convertito. Non può fare il sindaco. Però dicevamo il Papa ce l'ha dal viaggio papale, ritorno dall'Africa. Eccolo qui, la battuta su Francesca Sciauchi, questa PR del Vaticano che tanto scompiglio ha creato. Cosa ha intenzione, come intende procedere perché questi episodi non si possano più verificare? Ma io ringrazio Dio che non ci sia la Lucrezia Borgia. Ma continuare con i cardinali, con le commissioni a pulire. Pulire, capito Aurora? Pulire. Mi posso anche la regina Margot, la notte dei Giugonotti. Sì. Ringrazio che non ci sia la Lucrezia Borgia. Sì. Non è facile fare il Papa di questi tempi. No, è quasi più facile fare il sindaco di Milano. Sì, effettivamente, infatti ci stavi pensando. Federico, guarda che se stai con noi ancora mezz'oretta... No, non c'è pericolo, però sai, lui si è reso conto che ci sono dei personaggi un po' così in giro per il Vaticano, poi si è reso conto anche che questi personaggi li hanno nominati anche lui. Esatto, infatti lì è stato un grande errore. Per la verità dice io ho nominato Balda e Monsignor Balda pare che l'abbia portato lui. Vabbè, ma cosa non ti piace di questo Papa, Aurora? Non capisco, cos'è che non ti piace questo Papa? No, ma è un Papa straordinario, un po' troppo attento alla dimensione sociale, un pochino meno quella spirituale, insomma, però sì. Dai, di che è di sinistra. Dai, di che è comunista. Dillo. Ce l'hai sulla punta della lingua. Che l'estremismo, insomma, viene generato dalla povertà, non lo so, Bin Laden era tutto fuorché un poveraccio, penso che come denuncia dei redditi fosse messo, no, nel senso, voglio dire, insomma, adesso, però ecco, insomma, tu sai che io, Papa emerito per me, insomma aveva un altro significato per la mia... Vabbè. La mia fede, però vabbè, è comunista, no? ma dillo ma non... è un po' così, un po' argentino così, magari un po' comunista, un po' diverso da noi europei, un po' argentino, Federico, un po' argentino, cioè, diciamo, stai dicendo che è vicino a Vendola, è vicino a Vendola più Vendola che Taverna. Va bene, dai, io vi devo salutare. Federico Novella, vi ricordo, alle 9 mattino 5 e Aurora Lussana, il polente Cuny è quasi pronto, ti attendiamo un invito a pranzo una volta, perché tutto questo che fai, insomma, tutto il cibo che cucini vorremmo anche assaggiarlo una volta, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Più avanti avremo ospite il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle, è su tutti i giornali in questi giorni per una questione di gestione di rifiuti che sta creando non pochi problemi in città, ma c'è anche tutto un dibattito sulla efficacia o meno della capacità di governare le città da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Il dibattito è sui giornali, sarà ai nostri microfoni con Oscar Giannino dalle 8:40, il sindaco di Livorno. Ora i giornali. Dai che è arrivato anche dicembre, martedì 1 dicembre. Il Sole 24 Ore apre su che cosa? Dalle staminali alla nuova plastica, il viaggio nella terra degli inventori. Un'inchiesta sull'Italia che innova, Bologna, Parma, Reggio, Sassuolo, quadrilatero che vale 27,5 miliardi di export. E c'è anche un'inchiesta che vedremo di Claudio Gatti sui finanziamenti di armi all'ISIS. Il Corriere della Sera, i miliardi promessi dai capi di Stato per salvare la terra, il summit sull'ambiente. Per Repubblica, terra è l'ultima chance. Obama scuote il vertice di Parigi. La Stampa, Obama in Libia più raid per frenare l'avanzata dell'ISIS. Mentre per Il Messaggero, il titolo di prima pagina, i grandi, clima, agire subito, questo è il titolo di prima pagina. Invece il giornale si concentra su cose italiane, il patto del presepe, tra poco le vedremo, l'attacco al Natale, la difesa politica. Così su Libero, dopo il presepe cacciano il vescovo, attacco al Natale. Il Fatto Quotidiano invece è un'apertura che mi tengo da parte tra poco perché la leggeremo integralmente. Ma voglio partire da che cosa? Beh, ha parlato il Papa dal viaggio papale, l'intervista che trovate su tutti i giornali, il dialogo con i giornalisti, il ritorno dall'Africa. Sul volo papale, che cosa ha detto Papa Francesco? Ha parlato di pulizia da fare, continueremo a fare pulizia, sono state commessi errori nelle nomine, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera. Sulle nomine di Vallejo Balda, il monsignore sotto processo, e di Francesca Sciauchi è stato fatto un errore, dice il Papa. Monsignor Balda è entrato per la carica che aveva di segretario nella prefettura per gli affari economici. Non son sicuro di come sia entrata lei, si riferisce a Francesca Sciauchi. Credo di non sbagliare dicendo che è stato lui a presentarla, così il Papa. Finito il lavoro, i membri di quella commissione sono rimasti in Vaticano, anche Balda. La signora Sciauchi non è rimasta in Vaticano, alcuni dicono si sia arrabbiata per questo. E alla domanda che fare perché non ci siano altri episodi ha detto... Il Papa, ringrazio Dio che non ci sia Lucrezia Borgia. E ovviamente il Corriere della Sera fa anche un riquadro a raccontare chi era storicamente Lucrezia Borgia. Lo ricordiamo, figlia illegittima del futuro Papa Alessandro VI. Lucrezia Borgia, siamo all'inizio, a cavallo tra la fine del 400 e l'inizio del 1500. Incarna insieme a tutta la famiglia Borgia il simbolo della politica spietata e della corruzione sessuale attribuita ai papi rinascimentali. Ecco, ieri ha detto proprio questo il Papa, ringrazio Dio che non ci sia Lucrezia Borgia. Comunque, aggiunto, bisogna continuare a pulire coi cardinali e le commissioni. Questo il Papa, ma la vicenda VatiLeaks continua con particolari piccanti, interviste, contro interviste, appunto Francesca Sciauchi, che questa è la novità su Corriere e Messaggero, ricattava i Berlusconi, questo almeno racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 19 del Corriere della Sera, così Sciauchi ricattava i Berlusconi. È arrivata a telefonare a Paolo Berlusconi, editore del giornale, per chiedere che un vaticanista del quotidiano, cioè Fabio Marchese Ragona, non scrivesse più. e al che ha fatto pressioni, voleva parlare col direttore del giornale Sallusti e quando, scrive la Sarzanini sul Corriere, non è riuscita, passava le maniere forti, cominciando a parlare di stanze di rogatorie giunte in Vaticano che riguardano gli affari di Berlusconi. Assicurava la Sciauchi di avere il potere per concedere assistenza giudiziaria ai magistrati, cioè, scrive il Corriere, una vera e propria minaccia. Tra l'altro c'è un'intervista al marito, e qui siamo veramente così al feuilleton, l'intervista al marito di Francesca Sciauchi, e cioè Corrado Lanino, accusato da Monsignor Balda di essere un marito di copertura, perché in realtà a Sciauchi mi ha sedotto, ha scritto il Monsignore in un memoriale. E allora eccolo qui la difesa di famiglia, altro che marito di comodo, io amo la mia papessa, la chiamavo così dopo la nomina in Vaticano, amo la mia papessa, perché non porto più la fede al dito, adesso c'è proprio il processo, anche Virginia Piccolillo che chiede, ma se non è un marito di comodo perché non porta più la fede, sono ingrassato, così deve rispondere, non mi sta più nel dito, insomma capite che siamo a questi tipi di particolari. Tra l'altro anche Francesca Sciauchi si inserisce in questa intervista al marito sul Corriere della Sera a dire: ho sbagliato ad accettare la nomina in Vaticano, prima avevo una vita felice. E giusto per capire a che punto siamo arrivati, c'è anche l'intervista a Luigi Bisignani su Libero, accusato di essere il mandante, colui che è il grande promotore di Francesca Sciauchi, e lui intervistato da Franco Becchi su un'intera pagina, pagina 15, dice: ma l'ho vista una volta sola, ho visto lei e Monsignor Balda una volta solo. Tra l'altro, e qui particolare, abbastanza di cattivo gusto di Bisignani, tra l'altro incontrando la prima volta Francesca Sciauchi ho pensato che il suo fotografo fosse un eccellente ritrattista, cioè sta dicendo in modo raffinato che appare meno appariscente, che è meno appariscente che in foto o dal vivo? Sicuramente meno. Insomma, Bisignani che in pratica anche la butta sull'estetica della Sciauchi. Ecco, siamo arrivati a questo. Comunque Bisignani dice: questo è un processo voluto dal Papa, colpire alcuni per educarne 100, tirando in mezzo anche dei giornalisti. A proposito di religione, non so se c'entri la religione o se c'entri solo ormai la politica, la vicenda di Rozzano, dalla quale speravo di tirarmi fuori nel giro di 24 ore, continua sui giornali, anche qui come un vero feuilleton a puntate. Ieri c'è stata la sfilata, Maria Stella Gelmini, Salvini, La Russa, c'erano anche gli indipendentisti veneti, tutti a Rozzano per a chi apportare un presepe, chi apportare una propria parola a difesa del Natale, chi a criticare, insomma la CEI anche ha criticato, ma i vescovi fanno un po' il loro lavoro dicendo è ridicolo cancellare la festa, la politica insomma si è mossa, tutti a Rozzano alla scuola di elementare, dove a questo punto non si capisce neanche più, non è neanche più importante se sia stato vietato il Natale o meno, se siano notizie un po' infondate, esagerate, l'importante, come scrive Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, pagina 20, ci vorrebbe la penna grottesca alla Garcia Marquez per raccontare al meglio la giornata di Rozzano, una specie di sarabanda in cui risultava pressoché impossibile districare le migliori intenzioni dalle peggiori, la buona dalla cattiva fede, la sincerità dall'ipocrisia, proteste, controproteste, appelli, contrappelli, canti e controcanti all'istituto Garofani dopo che il preside Marco Parma ha raccontato di aver respinto la richiesta di due mamme che avrebbero voluto approfittare della pausa pranzo per insegnare ai bambini qualche canzone religiosa. E allora via i politici a cantare tu scendi dalle stelle, a difendere i valori, insomma una gran sarabanda. Ci si mette poi anche il fatto che a Sassari c'è una visita rifiutata a un vescovo in una scuola, la bufera a Sassari è partita, adesso come ho detto prima costruiranno le scuole in due giorni per poi creare delle false o presunte false o chissà forse vere feste saltate a Natale e via, gran polemiche. Poi dall'Epifania che tutte le polemiche porta via non ce ne occupiamo più e poi attorno al 25 novembre 27 del 2016 per 20 giorni e via con queste notizie sui giornali. Comunque anche il Messaggero: da Milano alla Sardegna al Natale è vietata a scuola. e La Stampa dedica una pagina a Sassari. La scuola multietnica chiude le porte al vescovo e a lei. Intanto, eccolo qui l'articolo che mi fa tenere le mani sul microfono. A voi le mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata. È l'apertura del Fatto Quotidiano che mi sono tenuto da parte prima. I politici da caserma nelle suite a 40 euro con idromassaggio. Succede, lo scrive il Fatto Quotidiano con Toni De Marchi e Carlo Tecce a Roma, dove c'è una foresteria dell'esercito. Indirizzo Viale Castro Pretorio 95, a 200 metri dalla stazione Termini. Qui, nel complesso logistico Pio IX, ci sono le case che sarebbero destinate agli ex militari, ma che finiscono a chi? Le case dei generali le danno a Formigoni e i mutilati aspettano. Formigoni è solo uno dei nomi citati di politici che avrebbero usufruiscono certamente, secondo il Fatto, o hanno usufruito in passato di appoggi a Roma destinati in realtà ad ex militari, ma che finiscono a questi politici per una modica cifra di 7 euro al giorno, più uno per la pulizia. È successo che ne ha usufruito sicuramente l'attuale ministro della difesa Pinotti, scrive il Fatto Quotidiano, e adesso ha lasciato il posto in eredità all'altro Alfano dell'NCD, Gioacchino Alfano, non il ministro, ma l'altro Gioacchino, che ha pensato bene di portare con sé tre collaboratori. Ma è successo anche al viceministro Riccardo Nencini ai trasporti, che non c'entra niente con l'esercito, di solito impegnato in edilizia, ma riceve il trattamento di favore anche Formigoni e vive in una camera a livello superiore. Non è mai agevole prenotare una suite. Oltre ai già citati Formigoni e Nencini, ci riescono spesso il leghista Stucchi, presidente del Copasir, e l'ex ministro democristiano Folloni. Insomma, politici che vanno in alloggi che sarebbero riservati ai militari, ma sono destinati a politici ed ex. 7 euro al giorno per una suite. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle. Spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Milan. La radio costa! È vero, caro ascoltatore. Allora al 349-238-6666 arrivano tutti i vostri messaggi via WhatsApp. Anche saluto Giuseppe da Rocca Piemonte, in provincia di Salerno. Così mi scrive, Rocca Piemonte, in provincia di Salerno. Vai a verificare, Lorenzo Nespoli. Come salutiamo... Salutiamo anche dal Libano Massimo, che ci dice finalmente è arrivato il freddo anche in Libano, ben 17 gradi. Tanto mi conferma Lorenzo Nespoli che Rocca Piemonte. No, volevo confermarlo all'ascoltatore, effettivamente caro Giuseppe vivi in provincia di Salerno, però vivi a Rocca Piemonte. Allora, dicevamo, il terrorismo internazionale ancora in primo piano, intanto con l'accusa di Putin. Putin, che accusa il nostro jet, è stato colpito in Siria per proteggere i traffici con l'ISIS. È un'accusa molto dura alla Turchia. Non è la prima volta che Putin fa un'accusa così pesante alla Turchia. E tra l'altro, proprio nel giorno in cui il Sole 24 Ore fa una grande inchiesta, è una di quelle inchieste di Claudio Gatti che vanno lette dalla prima all'ultima riga. In prima pagina il lancio di Claudio Gatti è questo: i C-17 del Qatar, le coperture di Ankara, l'agente di viaggio della CIA, le armi destinate ai ribelli in Siria. Sono due pagine di inchiesta che continuano poi a pagina 9 e 10, che raccontano tutte le vie del finanziamento dal punto di vista delle armi all'ISIS. Scrive Gatti nella prima del Sole: nella lotta all'ISIS tutto sembra chiaro, da una parte la civiltà moderna, dall'altra il terrore oscurantista, nessuna via di mezzo. Ma è veramente così? Per esempio, ci si può fidare di Turchia e Qatar? E non è che gli stessi Stati Uniti abbiano in qualche modo concorso ad armare formazioni terroristiche in Siria? Per ora nessuno si azzarda a fare queste domande, ma i dubbi circolano, e da un'inchiesta del Sole 24 Ore risulta evidente che Turchia e Qatar non solo hanno interesse in contrasto con chi vuol sconfiggere il terrorismo islamista, ma hanno probabilmente armato formazioni estremiste associate a quel terrorismo. Ora, si è sempre detto chiaramente, ma qui nero su bianco nell'inchiesta di Claudio Gatti ci sono la storia, gli intrecci, la storia di una società americana conosciuta come l'agente di viaggio della CIA, insomma tutti i percorsi delle armi attraverso mezzo mondo e di come arrivano a finanziare i terroristi. Allora capite che quando tutto viene messo nero su bianco con documenti, quelle che sono parole diventano anche sempre più certezze. A proposito di Siria, che ne pensate della beffa di Abdeslam Salah Abdeslam? Pare che sia riuscito a farsi beffe di tutti noi, soprattutto dei servizi di intelligence, e ad essere arrivato in Siria. Questo almeno dalla Francia dicono in una fonte intelligence sicure, metto il punto di domanda, la beffa europea. Abdeslam è tornato in Siria, titolo di pagina 5 della Stampa, ma tutti i giornali dedicano paginate a quello che è uno dei terroristi di Parigi, che poi non avrebbe avuto il coraggio di farsi esplodere, è fuggito e ora sarebbe in Siria. È davvero così? Chi lo sa, però certo la certezza non l'avremo mai al 100%. Mentre ieri ho letto la prima puntata del viaggio di ritorno che Domenico Quirico, rapito in Siria 2 anni fa, ha fatto sulla Stampa. E oggi Domenico Quirico scrive altre 2 pagine intense che vi segnalo nel reportage. In prima pagina inizia e poi continua pagina 2-3. Il ritorno nella mia prigione, un viaggio tra dolore e rimpianti. Leggo ciò che scrive l'inviato della Stampa. Un pallido, ineguale mondo disseccato mi accompagna verso Yabrud, dove sono stato prigioniero degli islamisti siriani. Un mondo pallido di siccità, inumano. Come avanzare sul letto di un mare immenso, seccato da incalcolabili età e ora più arido di ogni altro deserto. Eppure che ancora ricorda il fondo del mare, con le sue colline, i suoi picchi, le sue piatte pianure, tutte fratturate come di fango secco. Chiudo gli occhi e penso, eppure devi scoprire che razza di ferita è la tua 2 anni dopo e se ritrovi la tua vecchia prigione, ma tutto ciò ora che sto per arrivare mi sembra freddo e indifferente, come se mi avessero portato attraverso il museo di una città morta. Adesso il dolore c'è, vorrei che svanisse al più presto, sparisse anche il ricordo. Ecco il lungo muro bianco, le possenti pietre del tempio romano con le iniziali di Caligola che i cristiani furenti trasformarono in basilica. Eternità dei fanatismi. Qui sentivo insieme dalla mia cella le campane della chiesa e gli appelli del muezzin. Non so verso cosa inclinare. Amo tutto questo con rimpianto, amo con ferocia, non perdono alla Siria di avermi costretto a sentimenti tra i quali non mi è consentito scegliere. Poi Quirico racconta gli incontri con i testimoni di allora, chi gli racconta che tipo di città fosse quella nella quale lui è stato rapito. E poi la chiusura a pagina 3 della Stampa. Volevo andare ad Al-Qusair, dove la mia prigionia è ricominciata, ma rinuncio. Dello stato d'animo che in quei lontani 5 mesi furono solo una lunga tortura, non sopravvive nulla, perché in questo mondo dove tutto si consuma, dove tutto perisce, c'è una cosa che cade in rovina, che si distrugge ancor più rapidamente, lasciando ancor meno segni, ed è il dolore. E il reportage di Domenico Quirico, davvero ve lo segnalo sulla Stampa. Tra l'altro, a proposito di lotta al terrorismo, vi segnalo anche ciò che il Messaggero racconta a pagina 9 con Sara Menafra. C'è un giallo su una cellula italiana, o meglio in Italia, di siriani fermati. Bloccati tra Roma, Bergamo e Treviso, 7 siriani facevano parte di un unico gruppo legati da un mediatore somalo che ha fornito loro i biglietti aerei per andare a Malta. Ora, su questo intreccio raccontato molto bene dal Messaggero in un'intera pagina, pagina 9, c'è tutto da verificare, i magistrati lo faranno, ma il timore è che possa essere una cellula di persone sospette, certamente, 7 persone siriane di un unico gruppo. Insomma, i timori continuano. Ma alle 7:43 minuti è il momento di salutare la capolista. La capolista. 2-0. monopolista. Mauro Meazza, come stai? A proposito, buongiorno, sono molto sorpreso, diciamo, di tutto questo. Che cosa? Dubbio di effetti speciali. No, di essere finito dentro Star Trek. No, vabbè. Mi hai distratto dalla mia lettura, devo dire la verità, perché sì? Stavo leggendo invece questo viaggio in Italia che innova con tutta una serie di eccellenze italiane che raccontiamo partendo dall'Emilia Romagna. Oggi sul Sole 24 Ore le prime quattro pagine, è molto interessante perché appunto si scopre la capacità di innovazione, di creare nuove cose da parte delle nostre imprese. Non ho ancora trovato quel robot, quella cosa lì che ieri sera ha fatto perforato due volte. Quale? Aspetta. Non so chi l'ha inventato. Aspetta che c'è un momento, vuoi interrompere Pavarotti? Perché era Pavarotti, non la butterei proprio sulla geografico, però effettivamente forse è stato prodotto anche lui in Emilia Romagna oppure in un altro distretto, perché segnale due gol così effettivamente innova proseguirà come vedete oggi sul Sole 24 Ore. Vabbè, comunque mi hai distratto tu e anche Peter, che non so, improvvisamente gioite anche di queste vittorie, e invece io ho tante cose da dire. Perché vedo però che vi entusiasmate. No, ma che entusiasmo, è Pavarotti. Mi fa piacere. Allora, oggi è importante, guarda che c'è il primo vocabolario del Sole, sì, le parole dell'economia. È vero. Prima uscita oggi, seconda uscita domani. Oggi parliamo delle banche, cioè dizionario con le parole chiave che riguardano le banche, parole chiave del Sole 24 Ore raccolte in un vocabolario ogni martedì e mercoledì da oggi, perché anticipiamo già che domani sarà invece diritto e regolazione. Bene. Perché oggi è martedì e siccome è martedì c'è il condominio. Oh, bravissimo. E tra l'altro lì potrai apprendere che nel nuovo contratto nazionale degli amministratori è prevista anche la badante di condominio. Non so, tu ne avresti bisogno, tu e quell'altro amico tuo che sta di là dal vetro, che vi divertite con gli effetti speciali, ecco, potreste ricorrere anche alla badante di condominio. Comunque, invece, ci sono cose anche molto importanti. Sta arrivando il Common Reporting Standard. So che tu non sai cos'è, ma guarda, che vuol dire che il fisco sa dove hai messo i tuoi due urini all'estero. Ecco, già ieri ti abbiamo ammonito, oggi torniamo. Stanno per essere varati i decreti di recepimento appunto di questa procedura di riconoscimento, è molto importante, ne parliamo oggi sul Sole 24 Ore. E poi una sentenza che farà discutere per della Cassazione l'articolo 18, sì, il nuovo articolo 18, quello, ti ricordi, dello uso dei lavori riformato, eccetera, dibattuto, si applica anche al pubblico impiego. Ne parliamo in norme e tributi, così ha deciso la Cassazione. Adesso ci sarà da applicare anche la riforma Madia della pubblica amministrazione, vedremo come si orienteranno. Quindi ti consiglierei una lettura attenta, anche appunto perché si parla di licenziamenti anche al tuo amico, quello che sta di là dal vetro. E poi non ti dimenticare, no? Sono contento che sei ilare oggi. Hai ritrovato il sorriso, non ti fa più male la gola, insomma, vabbè. Non ti dimenticare, adesso mi hai distratto, accidenti, della legge di stabilità. Va bene. Me la stavi trascurando. No. Me la stavi trascurando, invece la legge di stabilità va avanti. Guarda che, racconta Marco Mobili, oggi si stanno preparando delle correzioni importanti per le imprese che hanno affari con i paesi blacklist. È una cosa che si collega a questi controlli in automatico. Sì. E che puoi apprezzare sul Sole 24 Ore. Non ho più tempo perché me ne avete fatto perdere un sacco con i vostri effetti speciali che avete preparato tutta la notte, fossimo a piedi grotta. Comunque concludo con il mio abituale e immutato grido: Profico! Attenzione Higuain che parte velocissimo, le pivite Higuain in area di rigore, rimontato Higuain, ancora lui, un mostro. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. E allora 7:49 minuti, saluto tutti gli ascoltatori, anche chi mi scrive che bambini che siete, che bambini, ma chi noi, io, Peter Bescapè, ma perché, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un omaggio a Pavarotti, adesso non possiamo fare un omaggio a un grande esponente dell'italianità nel mondo. Saluto davvero tutti. E quelli che ci seguono, anche un ascoltatore che ci scrive da Stresa, Alessandro da Stresa, evviva. Allora, trovate molte pagine ovviamente sul Vertice Mondiale sul clima, molti giornali aprono su questo, saranno due settimane di dibattiti, di confronto, di cercare di trovare un accordo, di analisi. Vi segnalo sulla questione del clima, Sara Gandolfi oggi a pagina 3 del Corriere della Sera racconta il ruolo dell'India in questi vertici un po' magari dispersivi. È interessante andare a cercare qualche articolo che spiega le cose. Ecco, Sara Gandolfi spiega il fronte indiano. Il fronte indiano è con il premier Modi, che dice tocca ai paesi sviluppati fare gli sforzi maggiori, tocca cioè all'Occidente trasferirci il know-how, tocca insomma non tanto a noi. E infatti il Corriere racconta che proprio il fronte Stati Uniti-India sarà un fronte interessante in questo vertice, uno dei tanti fronti ovviamente. Certo, fa molto specie la reazione della Cina, no? Dove invece ci sono dei cieli pieni di smog nelle grandi città. La reazione che io ho fotografato, certo è un titolo, per carità, non è che la ricetta sia questa, ma il consiglio cinese: chiudetevi in casa che c'è lo smog da record. Ovviamente, ho capito, cioè chiudetevi in casa, ma che razza di ricetta è? Questo è il titolo di Repubblica, pagina 6, lo smog da record che ingoia le città cinesi, chiudetevi in casa. Va bene, vivete blindati in casa, cari cinesi. Tra l'altro, casualmente, ma proprio casualmente, in questi giorni l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha reso nota questa ricerca. Elena Tebano la racconta a pagina 6 del Corriere, ma c'è un po' ovunque. In Italia ci sarebbe il record di morti per lo smog, in Italia rispetto a tutta Europa, il record. Io non lo so, non ho le competenze scientifiche, però quando leggo queste cose mi lasciano sempre un po' perplesse queste ricerche. Però il dato di fatto è che finiscono sui giornali e le riporto, e ci sarà una ricerca fatta con tutti i dovuti crismi. In Italia il record di morti per lo smog. Noi, a proposito di Italia, parleremo di politica, c'è qualcosa sui giornali? Beh, la vicenda Livorno certamente è ben presente sui giornali, tutti i giornali, il Fatto Quotidiano dedica una pagina a Livorno, il Movimento 5 Stelle si spacca sui rifiuti, la guerra è sul web, Malori risse in aula consigliare, dove a Livorno non si raccolgono i rifiuti da qualche giorno, c'è anche una municipalizzata dei rifiuti in forte rosso dal punto di vista dei conti, il sindaco Nogarina accusa la precedente giunta del Partito Democratico, però c'è anche un problema interno con alcuni assessori che potrebbero lasciare del Movimento 5 Stelle, la spazzatura sommerge i grillini, questo è il titolo del giorno. Noi avremo ospite proprio il sindaco di Livorno Nogarin alle 8:40 per cercare di capire non solo e non tanto solo come si risolve la questione lì, ma anche come sia difficile da parte del Movimento 5 Stelle poi, quando si tratta di governare, avere a che fare con i problemi quotidiani. A proposito di primarie, il Corriere della Sera invece porta avanti la telenovela Milano, dove si fa notare che oggi Pisapia sarà ospite di Floris, quindi di martedì sulla 7, e pernotterà a Roma. Voi dite, ma chi se ne frega se il sindaco di Milano? No, perché pernotta a Roma, questo secondo il Corriere della Sera è un chiaro segnale che domani Pisapia vedrà Renzi. Primarie, cosa dirà Pisapia a Renzi, Sala e Balzani verso il duello ai gazebo. Sala è l'ex amministratore di Expo che Renzi vorrebbe candidato, e Balzani è la vice di Pisapia e Pisapia vorrebbe invece la sua vice. C'è anche in questo racconto di Maurizio Giannattasio l'ipotesi che si candidino tutte e due per il centro-sinistra, sia Sala e sia Balzani. Quanto manca? Un minuto. Vi segnalo che cosa? Beh, il no di Amburgo. Avete capito? Danilo Taino lo racconta, pagina 22 del Corriere della Sera. Sapete come funziona in una democrazia? Ad Amburgo hanno votato, hanno fatto un referendum i cittadini, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, riprendi a lato, non le donne nude del calendario Pirelli, qui il trafiletto. Ad Amburgo hanno votato i cittadini, hanno detto no e Amburgo non si candiderà alle Olimpiadi per il 2024. Hanno votato, hanno chiesto ai cittadini e Angela Merkel, che ha preso con insoddisfazione questo no, dice i cittadini hanno votato, quindi Amburgo non si candiderà alle Olimpiadi. Funziona così? Guardalo qua, scappa Napoli, non spacca Napoli, scappa Napoli, la prima della Gazzetta. No, ma così era per celebrare Pavarotti, l'italianità, mica per altro. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina intera sui tatuaggi. I tatuaggi quando ci si lascia, tra l'altro questa non è nuova. Tatuaggio mio, adesso non ti amo più, com'è difficile lasciarci. L'amore finisce, il tatuaggio resta, la sbornia passa e c'hai il teschio col pugnale. Eri di sinistra, c'avevi Che Guevara, poi sei diventato di destra e c'hai Che Guevara. Se eri pirla e rimani pirla, il tatuaggio non si toglie, no? Ma chi se ne frega!